24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In apertura la notizia dei tagli fatti dall'agenzia di rating americana Moody's. Per l'Italia l'abbassamento sull'affidabilità del debito arriva dopo quello di Fitch e Standard & Poor's. Per Moody's l'Italia ha ora un rating A3 rispetto alla 2 con outlook negativo. Declassate anche Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Malta e Spagna. L'agenzia ha anche rivisto al ribasso la valutazione sull'outlook di Francia, Regno Unito e Austria negativo, lasciando comunque invariato il rating AAA. C'è un attacco speculativo verso l'Europa e le agenzie non sono indipendenti, è il commento del direttore di Radio 24, Fabio Tamburini. Va detto con forza che in Moody's, ma anche Standard & Poor's e Fitch, hanno degli interessi di parte. È in corso ormai da qualche mese un attacco contro l'euro e contro i paesi europei e le agenzie di rating stanno giocando di sponda. Da sempre sui mercati finanziari si confrontano rialzisti e ribassisti, è in corso un attacco speculativo, le agenzie di rating non sono al di sopra da ogni sospetto e questo giudizio di Moody's arrivato nella notte è l'ennesima conferma. E dopo il taglio di Moody's sentiamo come hanno chiuso i listini europei. I listini europei hanno chiuso un'altra giornata improntata alla cautela, senza risentire del taglio del rating italiano da parte di Moody's. L'ottimismo che si era diffuso dopo la pubblicazione dello ZEV sulle aspettative dell'economia tedesca è stato stemperato nel pomeriggio da alcuni dati americani e risultati peggiori delle attese. Parigi, Londra e Francoforte hanno chiuso in leggero calo, mentre a Milano il FTSE MIB ha terminato in positivo a più 0,47%. A Piazza Affari acquisti su Parmalat, grazie ai nuovi rumor relativi a un maxi dividendo. Bene anche Campari, più 3,9%, Eterna più 2,7%, che ha collocato un bond a 5 anni da 1,25 miliardi. Male invece l'automatica, meno 5,8%, penalizzata dalle ipotesi di nuove tasse sul settore dei giochi. Per quel che riguarda il riassetto Fonsai è stata un'altra giornata convulsa, col titolo che prima è schizzato verso l'alto, poi verso il basso e alla fine ha chiuso a più 2,5%, ma con scambi pari al 7% del capitale. Il mercato, intanto, si interroga sul possibile emergere di una cordata alternativa a Unipol per il salvataggio della compagnia assicurativa. Guido Maurino, da Radio Corp a Radio 24, il Sole 24 Ore. L'Italia cresce poco e ci sono tante debolezze strutturali che rendono necessaria un'analisi più approfondita della situazione, nonostante il governo Monti stia agendo con determinazione. E questo il giudizio espresso dal commissario agli affari economici Olli Rehn. L'Italia registra evidenti problemi di competitività, preoccupa il debito pubblico, anche se l'indebitamento del settore privato è relativamente contenuto. La Commissione ha comunque scelto di non lanciare alcun allarme. L'Italia fa parte di un gruppo di paesi, tra i quali si trovano anche Francia, Regno Unito, Belgio, Finlandia e Svezia. Questi ultimi due i principi del rigore di bilancio, come dire, mal comune se non mezzo gaudio, almeno fuori dalla zona pericolo. Intanto il presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, ha comunicato che la riunione dell'Eurogruppo di oggi si terrà in teleconferenza senza prendere decisioni sugli aiuti ad Atene. La Grecia, infatti, ha spiegato Juncker, non ha ancora soddisfatto tutte le condizioni chieste dall'Europa per ottenere la nuova tranche di finanziamenti. E ieri la notizia che l'economia greca ha subito una contrazione del PIL pari al 7% tendenziale nel quarto trimestre. Si tratta di un dato ancora peggiore delle ultime stime, che prevedevano una contrazione del 6% legata all'impatto dei tagli alle retribuzioni e degli aumenti delle tasse chiesti da Unione Europea e Fondo Monetario. Il 2011 è stato per Atene il quinto anno consecutivo di recessione. La Cina è pronta a intervenire in modo più deciso per trovare una soluzione al debito europeo. Con questa dichiarazione del premier cinese Wen Jiabao si è aperto a Pechino il summit Europa-Cina. La crisi dell'euro, che preoccupa anche il gigante asiatico, è arrivata a un punto critico, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese alla vigilia del vertice. In un editoriale del quotidiano del Popolo, la Cina ha dichiarato di non avere intenzione di comprarsi l'Europa. Il vecchio continente resta il primo partner commerciale di Pechino e per gli esperti gli asset industriali europei sono un investimento più interessante che l'acquisto dei titoli pubblici di stati sull'orlo del default. Il lavoro. La Commissione europea ha presentato l'azione del team antidisoccupazione in partenza per l'Italia. La disoccupazione giovanile in Italia, scrive la Commissione, è causata da molti fattori, tra cui la segmentazione del mercato del lavoro e un sistema squilibrato di sostegno alla disoccupazione che ha creato diseguaglianze tra le generazioni. Il governo italiano ha detto no alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2020, a pesare in particolare i costi eccessivi, stimati in 4,7 milioni di euro. Non ce la sentiamo di prendere un impegno finanziario che potrebbe gravare sulle finanze dell'Italia e sulle tasche degli italiani, ha spiegato il premier Monti. Adesso le candidate in lotta per ospitare tra 8 anni le Olimpiadi restano 5: Madrid, Tokyo, Istanbul, Doha e Baku. A Torino la storica sentenza Eternit ha trovato ampio spazio sui quotidiani in Europa. Grande protagonista il PM Raffaele Guariniello, che caparbiamente ha visto trionfare la sua tesi al processo Eternit. Un suo profilo. 70 anni, piemontese di nascita ma con discendenze salernitane da parte di padre, dopo la laurea in giurisprudenza Raffaele Guariniello ha continuato gli studi con Giovanni Conso, conseguendo la libera docenza in procedura penale all'Università di Torino. Magistrato della Cassazione, dal 92 ha svolto le funzioni di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino. Il suo nome è legato ad alcune tra le inchieste più eclatanti nei settori del lavoro, della salute e dell'ambiente. Da quella sull'Eternit, proprio di ieri la sentenza, a quelle sul doping nel mondo dello sport, a quella sulle caraffe filtranti, dalla strage nell'acciaieria della ThyssenKrupp di Torino alle cozze tossiche, dalle mozzarelle blu alle magliette dimagranti. Molte di queste inchieste sono contraddistinte, come si può notare, da un'attenzione ai diritti dei consumatori. I ritmi di lavoro di Guariniello sono quelli di un vero staccanovista. Ama stare in ufficio fino a notte fonda, anche nei fine settimana, ma questo, per sua stessa ammissione, non è un sacrificio, bensì un divertimento. Dice di non andare in vacanza da 30 anni, da quando aveva i figli piccoli, e ammette di studiare ancora. Ogni 2 settimane, dice, va a Roma in Cassazione, dove si legge e si copia le sentenze depositate. Almeno 45.000 l'anno per sapere come interpretare le norme, per aggiornarsi di continuo. Inutile dire che è un tenace assertore dell'assoluta indipendenza dei giudici e dei pubblici ministeri. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche la Francia ha salutato una sentenza storica. La multinazionale Monsanto dovrà risarcire un agricoltore intossicato dai suoi pesticidi. Nel 2004, Paul François, un agricoltore francese allora quarantenne, inalò per errore una ingente quantità di un pesticida chiamato Lasso. Stette subito malissimo e per un anno soffrì di gravi problemi neurologici e muscolari, e di alcuni soffre tuttora. Quel pesticida era già stato messo fuori commercio in Canada, Gran Bretagna e Belgio, ma non in Francia, dove fu venduto fino al 2007. Ma non solo, ha sottolineato la difesa dell'agricoltore nel processo. L'etichetta non indicava chiaramente la composizione del prodotto, né la sua pericolosità in caso di inalazione. È una decisione storica, commenta l'avvocato della difesa François Laforgue. La Monsanto, che ricorrerà in appello, è stata condannata a pagare all'agricoltore i danni materiali comprensivi di interessi. Pierre François, intanto, è diventato quasi un portavoce delle vittime dei pesticidi. La nostra generazione, avverte, è quella più a rischio, dobbiamo stare attenti. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Restiamo in Francia. Con champagne, cognac e bordeaux in pole position, sempre molto apprezzati in tutto il mondo anche durante la crisi, i vini e i liquori francesi non si sono mai venduti tanto come nel 2011. Per la prima volta le aziende transalpine hanno realizzato un fatturato superiore ai 10 miliardi di euro, con una crescita del 10,5% rispetto al 2010. Il record storico è stato battuto, ha annunciato ieri la Federazione Esportatori di Vini e Liquori. In Francia il vino si classifica così come la seconda voce più importante dell'export, subito dopo il settore aeronautico e prima di profumi e cosmetici. Dopo giorni di ripetute uscite sulla stampa di documenti riservati del Vaticano, il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, prende posizione con una lunga nota editoriale pubblicata sul sito della Radio Vaticana, di cui è direttore. Una risposta lunga e meditata, quella del portavoce vaticano, che arriva dopo giorni di presunti scoop, polemiche e veleni, rivolta anche e soprattutto alle talpe che hanno pilotato le fughe di notizie. Oggi, dice padre Federico Lombardi, dobbiamo tenere tutti i nervi saldi, perché nessuno si può stupire di nulla. L'amministrazione americana ha avuto Wikileaks, il Vaticano le sue fughe di documenti, che tendono a creare confusione e sconcerto. Per questo padre Lombardi ha invitato a distinguere anche sui mezzi di informazione, perché un conto, ha detto, sono le discussioni ad esempio sulla migliore gestione economica di una istituzione come il governatorato, un altro sono i memoriali farneticanti che nessuna persona con la testa sul collo ha considerato seri. Padre Lombardi ha ricordato l'impegno del pontefice nella lotta alla pedofilia, per la trasparenza finanziaria e per il rinnovamento della Chiesa. Un impegno scomodo, evidentemente, secondo il portavoce vaticano, ma chi pensa di scoraggiare il Papa e i suoi collaboratori, ha detto, si sbaglia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Fabio Cantadoni in regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.